dici l'ho dato appena più di gas, va meglio così. Sì, però non sei come poco fa, non sei come l'altro. Lo so, è completamente, sono dei microfoni completamente diversi, già lo so. È per quello che io l'SM20 non l'ho mai dato, perché c'ha questa caratteristica qua di spingere parecchio, capito? Anche perché c'è la regolazione, mentre l'MC60 non ha regolazione. C'è il circuito di preamplificazione come questo, però non ha la regolazione, invece l'SM20 c'è un trimmerino sotto che puoi regolare, capito? Quindi quello là te lo puoi giostrare, invece l'MC60 non te lo puoi giostrare, a piacere tuo. Sì, già è bellino così, da. Ehi, no, già va bene. Vediamo un pochino, dandole ancora un pelino di... Ora, eccolo qua. Adesso praticamente, vedi che sta iniziando a trappare, vedi? Allora, lo devo tenere così. Che non vada oltre la C, perché altrimenti va a trappare, mentre con l'altro microfono invece non va a trappare. Sì, è vero, si sente un pochino una voce strana, grattarla un pochino, no? Ma sono già prove che ho fatto, capito? Sono già prove che ho fatto già da diverso tempo, quindi... Grazie a Dio uso questi microfoni e queste radio dal 1987, quindi non è che ci vuole molto a capire l'andazzo. Va bene, però diciamo che già vanno bene tutte e due, vai, non c'è problema, si possono usare sia una che l'altra, non è che cambia molto. Aspetta che stavano parlando, mi stavano chiamando, Cla. Chi è che mi sta chiamando? Stavi parlando tu e ho sentito Danilo, chissà che è. Non lo so, come vuol dire, c'è qualche vicino di casa, se vuoi dire qualcuno che arriva forte lì da te. Io non lo posso sentire. No, se parli tu non puoi sentire, no. Chi sta ascoltando è che lo sente, che si va a soprammodulare. Ah, ecco. Adesso faccio un altro tipo di regolazione, visto che ancora non l'ho chiuso. Aspetta, mi prendo. Eccoli qua, cacciaviti induttivi, perché voglio fare un'altra regolazione, così voglio vedere, visto che ci sei tu, se... Perché ce l'ho ancora aperto, Aspetta, vediamo un pochino, scusa se mi allontano, secondo. Allora, trimmerino questo, vediamo un pochino. Ora, ecco qua. Allora, vediamo un pochino se ha cambiato qualcosa. Ha cambiato qualcosa in questa posizione il trimmerino? Ha oscillato un pochino verso il 20, però sei sempre a 15 fisso. No, non è la potenza, sto facendo una regolazione sempre di radio. Una regolazione sempre di radio sto facendo, Dani. Allora, vediamo un pochino, Aspetta, se senti qualche rumore. Sono veramente piccolini sti gettoli. Ecco qua, vediamo un pochino così. È aumentato ancora la radio? Sì, appena appena è aumentato. Adesso sì, uguale identica come di prima con l'altro microfono. Non avevo dubbi. Sono in cuffie. Va bene, dai. Va bene anche questa, quindi, no? Sì, va benissimo, Cla. che io non so cosa toccare qua, se no mi sarei assillato anche io piano piano a guardare queste cose, solo che non c'ho niente per vedere, mi mancano gli strumenti. Vabbè, no, io ho regolato, vediamo un po', LC, ecco qua. Sono praticamente al limite, sono al limite, vado da 0 a 20 sull'LC, potrei andare anche sino a 30, ma comunque lasciamo stare così, già va bene. Sì, auguria che va bene. Ma tu senza parlare, Clark, premendo solamente il PTT, senza parlare, a quanto si muove, a quanto rimane fissa la lancetta dello la lancetta, a quanto rimane fissa? Allora, gli ho fatto un altro ritocco, sto regolando le LC, aspetta un attimo, poi ti rispondo. La mia? Allora io ce l'ho a 20 watt di portante multa, 50 modulati. No, io no, non ci arrivo a 20 di fissa. In poche parole, io nel segnale, nella tabella del segnale, nella scala del segnale, sono proprio sul 6 fisso, sul numero 6 fisso. Poi quando vado a parlare oscilla a 50 e va anche un pochino oltre. Sì, fisso. No, tu lascia stare dove c'hai i numeri. Sotto c'è una scala, c'è scritto power 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50 e poi ci sono le scalette sino ad arrivare a 100. Quella scala devi guardare tu, non devi guardare i numeri dello Smith. E rimane tra il 10 e il 20, diciamo che sia a 15, diciamo, da la portante fissa, quindi se intorno ai 15 watt di portante muta, che va bene, io la grande va bene. E quando parlo oscilla dai 50 in poi, a volte sale anche a 70, dipende dalla tonalità che do. Quella della tonalità che do che oscilla. Ti ho capito. Aspetta che io non mi voglio dare per vinto. Aspetta, Eccolo qua. Vediamo così. Allora, questa è una posizione. E questa è l'altra posizione, ecco. Alta e bassa, dai, va bene. Ok, va bene così, dai. Ho messo a metà praticamente il trimmerino, dai. Il trimmerino che regola l'LC. Ok, vediamo un pochino in LC. Sì, siamo sulla striscia rossa, dai, già va bene. Siamo sulla striscia rossa. Oia. No, già sta uscendo bene comunque come radio. È bella, bella potente, bella chiara anche la voce. Ehi, no, vabbè, dovevo fare alcune regolazioni, niente di particolare. Niente di particolare, dai. Va bene così, non ci sono problemi. Lasciamo tutto così. Almeno è a posto, dai. Va bene. Io la grande ce n'è prima io. E a voglia. Ecco qua, dimmi che marca è quello SM20, che marca è? SM20 è della ICOM SM20, è come l'MC60 solo che è nero, capito? Più o meno è come l'MC60, dai. Perché se adesso valuto tra questo MC60 e questo SM20, guardo, perché ho visto che c'hai molta più apertura con questo microfono, che si sente anche molto più forte. Adesso guardo quanto mi viene, e valuto se tenermi questo o comprarmi anche quell'altro. Aspetta, che avevo l'altra radio accesa. Tieni conto che questo è l'MC60 questo, e se mi metti, se te lo faccio sentire ancora più forte di questo. Questo è l'MC60 con la radio uguale alla tua, però gli ho dato appena appena ancora più di gas, ancora più di LC, capito? L'ho dato appena appena, ho aumentato appena appena il microprocessore dell'LC, però sono nella norma, sono dentro la soglia, hai visto dove c'è scritto LC, che va da 0 a 50, io sono a 30, capito? Quindi no, non c'è problema. Adesso ti riattacco l'SM20, stai attento alla differenza. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, questo è l'SM20, vedi? E poco di differenza c'è, poco, però con l'MC60 poco fa sta riuscendo bello potente, però questo qua si sente un pochino più forte, ma appena. Vabbè, questo è un'altra guba. Se senti rumori, sono in cuffia, non avere problemi, sono in cuffia, va bene. Comunque sono dei signori microfoni, sia l'SM20 che l'MC60, capito? Affanculo, non mi posso avvicinare perché altrimenti fischia, perché la sto chiudendo, c'ho le cuffie, dai. Comunque va bene anche l'altra, hai visto? Vanno bene sia uno che l'altro microfono. Adesso all'MC60 sul 14 gli ho dato proprio il limite massimo del microprocessore, in modo che spinga un bel. Mentre questo è l'SM20, capito? Sì, già me lo sono scritto, così me lo cerco quando c'ho 5 secondi dopo. Fatemi, fra un po' che sono già le 7:10, fra un po' chiudo, vado a farmi la doccia e mi preparo per domani. Eia, va bene. Ok, dai, Dani, ti saluto allora, tante cose belle, e alle prossime. Io mi faccio altre due prove in cuffie, vediamo se lo posso chiudere, ma mi hai detto di sì, quindi lo lasciamo stare così, dai. È bella forte, Clara. No, lasciala così, già va benissimo per me. Magari per qualcuno è un pochino forte, un po' più forte. No, lasciala così, già va benissimo. Va bene, dai, lo lasciamo stare così, allora almeno è tutto a posto. Va bene, Dani, ti saluto, allora, tante cose belle e alle prossimine, dai, ok? Ciao, buon fine domenica e buon tutto, va bene? Ok, grazie, ci sentiamo, ciao. Ciao, Dani, alle prossimine, dai, ci sentiamo, ciao. Marco, ci sei? A me hai detto, mica c'è Graziano anche. Eia, ma Graziano, i cupoli non me li sa dare. Ho dato una girattina, una tarattura in più al 14, come ti sembra? Buona, più forte del necessario, diciamo. Invece, vabbè, io sto usando il 3009, l'altro, porca miseria, si è bruciata la lampadina dello Smith, però modulazione molto espansa, vabbè, io dico sempre più del necessario, ce n'è, ancora di più ne vuoi. Ciao Grazia, buonasera, e potrei anche darne ancora di più, non ce n'è problema, no, così la chiudo e ce l'ho aperta al libro. Allora, ho dato il limite, sull'LC siamo a 0,50, siamo a 30, quindi ce n'era ancora da tirare, però lo lascio fare così, già va bene. Ciao Graziano, buonasera, ben ascoltato, avanti. Ciao Claudio, basta così, già va bene, ciao Marcolino, c'era anche Gianni poco fa, Luca, boh. Boh, non lo so, io c'è il volume abbassato, quindi non ho sentito nessuno, grazie, capito. Perché stavo facendo questi lavoretti qua, mi sono messo stasera, mi allora Graziano, ben poco ti si sente in 27, ah non stai più entrando qua, e come va di salute? Io qua al solito, le solite cose, mi poco fa stavo facendo roba, cucinando due cose fritte, mangiato, e mi è venuto il solito abbiocco, come se Claudio l'abbacchio, mi ogni abbiocco, praticamente avevo il volume a filo di udibilità e mi stavo un po' assopendo, dai. Ho sentito Claudio che mi sembrava che avesse chiamato me, allora ho risposto, dai. Chi altro c'è qua? Luca, ci sei? Luca l'uno, Luca l'altro, Gianni, io mi ero distratto, era Fornelli, non so che ci sia rimasto. Non gli ho più sentiti, poi stavo parlando Claudio con Claudio per regolare e non sono entrato io, capito? Non so, attento Luca Flippero c'era e anche Luca Manicomio, poi c'era Gianni pure. Ma davvero ti sei preso di nuovo il CRT 2000? Ma sì, il CRT, sì, fissato con questi baracchini, CRT, lì, quello K2000 lì. CRT 2000? Sì, sì, sì, sto facendo sentire poco fa la cosa, no, più o meno c'è come questo, anche lì due lavorettini che mi hanno segnato e ho tagliato il dielo, però poi sono riuscito a salvare quello che c'era a fianco perché l'ho dovuto staccare, facevo l'anno perché avevo l'espansione e voi non ho capito perché è stato usato pochissimo, era di un radioattore che è deceduto, è stato usato pochissimo, quindi c'erano le V e le U che non erano molto aperte come dico io. Ehi, ma aperte di banda o di modulazione? Cioè vuol dire aperte di frequenza o di modulazione? No, aperte di banda il V e l'U, no, il V e l'U solo, il resto erano, era tutto a posto. Chi va a tagliare il dito sia in HF che in V&U. Eia, quella è una bella bestia, quella è veramente bella, è la stessa foto che ho messo io sul profilo di WhatsApp, tant'è che alcuni ci sono un po' cascati e mi hanno chiesto, ma ti sei preso il K2000? Ho detto no, è preso da internet quella foto lì. Allora io il DS2000 sono stato io e altri tre radioamatori di Sassari appena uscito a comprare la fiera di Genova, avevo pagato il mio senza il 1200 2700 euro, anzi 2200 euro, mentre quello con il 1200 costava 3100 euro, quindi figurati tu. E poi l'ho venduto a Massimiliano Archimede perché mi serviva per fare lavoro praticamente, per fare, come si dice, aiuto, per interfacciare, insomma, per fare queste cose, e l'avevo venduto a lui, e me ne ero pentito. Io con questo avevo comprato due gemellini, della Icom 275H e 475H, che ce li ho ancora, naturalmente, quelli non si tocca. Li ho lavato perché io di HF ne avevo altri, quindi quella radio la usavo solo in V e in U, capito? In HF non l'ho mai usata. Si è capitata l'occasione, vabbè, siamo qua, non fa niente, va bene lo stesso. Via, Graziano, riprendi, ho sentito che c'è una moto fighissima, una moto a tre ruote particolare, giusto? Oh, qua è tutto buio lo smitter, ma sto scendo, sì. Sì, 9+30. Non ti posso neanche fare la foto perché sono già 3-4 giorni senza WhatsApp. Pensavo fosse risolto il problema, ieri stava funzionando, ha funzionato per un po', adesso non funziona più di nuovo. C'è un problema sul telefono che praticamente è andato a farsi fare il curso. Metteremo da parte, adesso domani o dopodomani uscirò con mio figlio, me ne porterò un altro. Va bene. Comunque questo è il non è la solita, questo è il 14. Ah, ok. Vabbè, perché poi tanto io cambiando apparecchio in ricezione non me ne posso accorgere. Non me ne posso accorgere, Claudio. Questo è il 3009 con MB+5. Giusto per usarlo, l'MB+5. se no lasciarla ferma la roba si rovina, oppure lo do, perché tanto lo sai che non amo modulazioni troppo amplificate, la batteria è pure mezza scarica, mi pare è arrivata a 8,2 volte, e quindi è ai limiti dell'usabilità. Graziano, sei ancora? Ecco. Vai Massimiliano. Ciao Marco, buonasera anche a Claudio. Ciao Massimiliano, buonasera, ben ascoltato. 5, 9, 15, 20 quasi qua. Allora, tutto a posto. Ehi, tutto a posto. Cos'eri in ascolto? No, veramente sono salito a chiamare Daniela, ho acceso e sentito a voi. E io mi stavo rispondendo a questa radio. Sto facendo quelle modifiche che tu ben conosci. Sto provando a vedere se viaggia, ma sembra che viaggi abbastanza bene. Già andava bene, per me puoi anche leggermente un pelino abbassare, per me. Un segnale buono perché invece di abbassare, questo è un segno buono, vuol dire che ho fatto un capolavoro. Perché sei al limite, capito? Proprio quasi al limite. Ma se sto prendendo gli occhiali, perché voglio vedere dove è Michigin. Allora, vediamo dove è Michigin, cazzo, sotto la C Michigin, minchia, quanto l'ho tirata io. Per me, poi non so gli altri, io già lo sai, al mio orecchio. Tu per te Marco come? Io poco fa gli ho detto che era anche più forte del necessario, visto che siamo tanto vicini. Però fastidio non ne dà, perché siete tutti e due forti di volume, quindi lo regolo e va bene per tutti e due. Sì, c'era più gente prima, Massimiliano, c'era, ti parlo di un'ora e mezza fa, c'era anche Giulio, poi si è sentato, c'era Tino, Gianni Ropirum, un po' di gente, poi piano piano chi doveva fare una cosa, chi l'altra, poi io ero ai fornelli, quindi non ero nemmeno in rotta, io ci sono e non ci sono, mi sto sempre allontanando, o vado in bagno, o vado in cucina, o vado, o mi chiama mamma, spesso e volentieri, quindi... Va bene, riprendi. Ci ringraziamo ma non riprende più. Proviamo a rilanciarlo ancora. Grazie. Buonasera. Ciao Anto. Massimiliano, l'ho messo sotto la C. Va bene così? Sì, lascialo così. Era troppo... eri quasi al limite, hai capito? Per quello ti ho detto di abbassare un pochino. No, io ero sul tetto, mi stavo facendo, cioè avevo una perdita, mi stava entrando un po' di umidità dentro la camera da letto, quindi mi stavo saldando un pezzo di cartone, che ha tramato, e ne sono sceso da poco, là. Saluto anche Antonio Bombolo, riprendi qua e poi fai girare. Ehi, va bene, dai. È già bella giornata, quindi già va bene. Un'altra domanda, Massimiliano, dall'ultima volta che mi hai sentito, che abbiamo fatto le prove con il 44, tanto adesso te le lancio subito, ha migliorato la radio, secondo te? Sì, ha migliorato. Ok, dai, va bene allora, perché gli ho dato al limite dell'LC, praticamente da 0,50 l'ho portato a 30, prima era 10, e quindi va bene, dai. Ok, mi interessava questo, perché stai ricevendo con una radio di quelle tipo questa, quindi l'importante è che siamo riusciti a fare quello che vorrei fare. Ciao Antonio, per te il microfono, avanti. Cappa, Massimiliano, è un abisso comunque. In che senso? Tutti forti sento qua. Tu sei Santiago 9 qua, pieno. Cappa, sento tutti forti sento qua. Cioè la ricezione ha cambiato, dal giorno alla notte ha cambiato. Un conto riceve con un'antenna a 3 metri, un conto riceve con un'antenna a 5 metri, e anche bassa, se la sollevi ancora vedrai che ricevi ancora meglio. Vai Marco. Eia. Qua naturalmente era già fondo scala da prima, qua è incollato, cioè più forte di lui arriva solo Claudio e Luca del Monte, dai. Da liscio. Sì, la ricezione migliora notevolmente, dai. Poi più in alto è meglio, io sto usando adesso il 3009, quell'altro col display rosso, quello che è il trimmer della modulazione aperto, ed MB più 5, volume 7, tono 2, come Massimiliano, passabile? Sì, sì, è buono, sento anche la televisione, quindi vuol dire va bene. Cioè, la televisione bassa di mamma, aspetti. Non parla adesso, però, va bene. Va bene, mi fido, ok. No, ti ascolto bene, dai, è una bella radio. Vai, qua. E anche da me, Antonio, da 9.5 è passato a 9.10, quando attacca a 9.10 va a 9.15. Va bene, sono tanti, mi hanno 5 punti S, non pensare che siano pochi, poi ti ripeto, quelli che hai vicino, il segnale è più alto, ma io da te sono distante, quindi perciò va più che bene, 9 più 10 stai arrivando, caspita, è un ottimo segnale, se mi arrivi tanto mi arrivi Gosio, come si dice, Giulio, quindi ottimo lavoro, ottima antenna, va benissimo alla grande, non ti preoccupare. Commuto Massimiliano, ti faccio sentire il 44, vediamo se c'è molta differenza, giusto per capire. Vai Anto. Cappa, va me venendo un dubbio, me venente. Se Maciaguletta è più lontano di Ribunti, vabbè, dai, non voglio commentare, non voglio. Cioè, come è possibile che da qualcuno arrivo 7-8? Strano. Non ho capito, da qualcuno? Ma ha detto qualcuno che arriva 7-8. Massimiliano è più lontano degli punti. Cioè, è più lontano Maciaguletta degli punti. E arriva 9 ed è più basso. Strano. Attento a Massimiliano, perché Massimiliano c'è una zona favolosa, Non quella piana lì dove abita Massimiliano ha dei segnali che pochi ce li hanno. Quindi se ti ha dato 9 Massimiliano e l'altro ti ha dato 7-8, c'è una differenza di piano, di coso, come si dice, di apertura. Massimiliano c'è una bella apertura, Io Massimiliano da qua lo vedo, quindi non ci sono problemi. Mentre all'altro non lo vedo, capito? Tanto è vero che ci sono quasi 10 punti S di differenza tra Massimiliano e lui, quindi capito. Massimiliano, questo è il 44, non voglio sentire neanche la risposta. Sì, va bene, cosa ti devo dire? Cosa ti devo dire? Gira e l'altra più forte. Ci ho regolato, il 14 è più forte di questo adesso. L'altro la sento più corposo anche, forse come tirata, cosa mi gioco? Lì ho fatto un lavoro particolare, ci ho messo un po', mi sono attentato un po', perché ci avevo scritti dei valori, tensioni e balle varie, non sono andato a lavorare sui trimmer, sono andato a lavorare proprio sui valori veri e propri della radio, capito Massimiliano, quindi sono riuscito a darle anche la parte del modulatore, proprio il microprocessore, la tensione giusta per poter spingere e non strappare, capito? Va bene, importante che siamo tutti e due efficienti, anzi tutte e tre, l'altra vabbè non te la faccio sentire perché sennò mi metto a piangere, per carità, sono alla radio, al 4.30 mi gioco a coltello in cuffia, una cosa allucinante. Beh, 4.30 è la migliore che hai in assoluto, attenzione che vanno bene tutte e tre, però 430 io lo usai. C'è una radio, la paura, manca ricevitore, lo sento, però guarda che... Ti ripeto, te l'ho già detto l'altra volta, a quel 14 a me me ne sono passati tanti, ma tanti e tanti, quanti forse te ne sono passati a te di baracchini modificati che ne hai avuto un mare, la stessa cosa ti posso dire, ma come questa non ne avevo mai visto, aveva tutti i sigilli, non aveva manco il decimale, nuova, dentro addirittura c'era il coso che isola, praticamente non è mai stata aperta al libro, c'era l'affare in mezzo dove sono le viti, il nastro isolatore della K, quindi è molto difficile trovare una radio del genere, capito? Il cambio che ho fatto io non è da buttare via, perché anche quella è nuova, va bene, ok, avanti Marco. Scusate che sto facendo roba in casa, io rimango al QRX un attimino. Vai Antonio. Kappa, dai. È Burino che sì, cioè qua. Tutti forti, tutti. Cioè, spinge parecchio quella radio che hai tu. E adesso vediamo, quando avrò i soldi, forse qualcuna me la prendo. Adesso ho già posto. Vediamo un po' di prendermela qualcuna. Però ho notato una cosa che è molto positiva, il piano di massa è più alto con questa antenna. Anto, tu in quell'antenna sai cosa devi fare? Ti devi buscare un palo di un paio di metri e lo metti come palo maestro, io mi sembra che ce l'ho, e dentro le metti quello lì, capito? Stringi un bullone e si arribito, boh, la sollevi un paio di metri e si è a posto. Lo so, ma basta un pochettino di più e sono già forte. Come ho dovuto sollevare la boomerang? La boomerang l'ho dovuta sollevare perché sennò non rendeva. Solo che era troppo grosso qui sul bar, l'ho dovuto passare da parte in parte, ci ho messo il bullone dentro, lo sai. Il problema sai che cos'è quello lì, Antu? Che in poche parole, lì dove c'è la molla, va, diciamo così, la spirale, ce l'hai troppo vicino al condizionatore, capito? E quindi secondo me non irradia molto bene, sei all'80% con quell'antenna. Strano. Puente strano. Potrebbe essere. Vabbè, poi stazionari se riuscito a abbassare ancora? Sì, l'ho abbassate, ancora. 1,3 dai. Sì, a voglia. Prova a agganciare le tariffe. Stai un attimo, devo cambiare il radio perché questa non lo sopporta. Stai un attimo. Cappa, guarda, vai. Riprendi qua. Qual è quella là? Massimiliano, per capirci. E cosa? Quella che c'è Antonio, quella là è? No. Un'altra. Avevi tu? No, un'altra era chiusa in busta. Ciao Antonio, ho scomottato la radio, Massimiliano, mi piace troppo anche come ricezione questo 14, veramente avrei la possibilità di vederlo, l'occasione, si capita l'occasione, ma veramente eccezionale anche come ricevitore. Sto dicendo, quell'antenna dei 50 verticale ce l'hai sempre, l'hai pulita, l'hai messa a posto? Ora attenzione, mi sentite? Sì, dove c'è tutta l'ambalava. Va bene, già ci sentiamo per telefono, ma tanto fai vedere il segnale a Massimiliano. 1, 2, 3, prova, mi sentite? Sì, ti sento, ma non sta andando bene, tanto tu non c'hai l'alimentatore, sei saturo. È saturo. 1, 2, 3, cazzo non mi dica la bagarre. C'hai anche alternato, tanto. E con 747 deve avere almeno 20 ampere se vuoi voler lavorare bene. E non è Ocla. Quindi ha ragione Massimiliano, sento rumore di alternata, vedi, perché non sale molto, perché Marco quando attacca 757 va da 9.20 a 9.30, tu vai da 9.15, cioè da 9.10 a 9.15, è poco la differenza, capito? Deve salire di più. E comunque com'è? Almeno 9.10 arriverà questa giù. No, non arrivi, superi appena il 9, è meglio quando sei sganciato, Anto. Molto superiore alla radio. Quando sei sganciato sì, quasi, ci vuole proprio un pelino arrivare a 9 pieno, ma proprio un'idea. Però quando agganci non sale quasi nulla, fai 9 pieno, ma è un pelo oltre 9, ma non di più. Però lì sei sottoalimentato tu. Sì, Miglia, adesso sono con 4 watt, com'è? Santiago 8. Tecla, sono omologato. 9,5 tu. 9,5 arrivi così, mentre con l'altro arrivi 9,10. Capo, è parecchio omologato questo, è normale, capito? Vai da 8 a 9 così, adesso sei sganciato sei a 8, e sei da 8 quando agganci vai a 9, non sale di più. Sì, capo, ma la radio è buona, dice apparecchio, fa un po' cagare. Ma sinceramente preferisco un po' più l'altro io. Ce l'ho così, dai, adesso più là vediamo di buscarne uno, qualcosa, perché io già ce li avevo le radio, solo che qualcuno ha dato tutto. Vabbè, fatti dini, già andavo così. del radio monte. Con 4 watt solo. Vero, vera via, ma già me le ricompro qualcosa. Ma via radio buone, burro me, radio, cioè, roba sotto di alto livello me. Cioè, vabbè, non avevo che voto, però ne avevo uno che era un bel potente, era. Ne ho avuto, solo che qualcuno ha dato tutto, era roba sua, la devo fare. Non è che ha pensato che mi serviva a me, ma questa non l'ha pigliata, è vero, già me le sono tenute io. Certo, avete dato quelle Galaxy, il giorno che l'ho visto, cazzo, è che a me non serve una radio del genere. Rigarato, cazzo, rigarato, nuovo, nuovo, nuovo. Cosa vuoi che ti dica? Io non ero d'accordo. Lui l'ha voluto fare. Ma lui no, non ne può più, vabbè. Già te lo spiego un altro momento. Sì, vabbè, Anto, c'è poco da spiegare. Le decisioni sono quelle e basta. Io prima di prendere una cosa. Come ci vediamo a volte ci mettiamo a ridere. Però lui lo sa come la penso io. Cazzo, non ero tutto un volto, ma vuoi dire cazzo, no, non do niente, perché poi me ne pento, capito? Ah, ma si vede. È già così, però io già c'ho tutto su subito. A differenza tua, io ci ho messo tutto. Speriamo che non te ne compri nessuno, cazzo, giusto perché ti voglio bene. Se comprano buono, se no già sono pagati i radio domani notte. Ah, io non ero d'accordo a dare certe cose. Dove la pigliate era fatta, boh. Ah, cosa cazzo vuoi che ti dica? Sì, vabbè, tu, ormai è fatta, non puoi piangere sulle cose fatte. Io sono molto stantio. Ci vediamo, conosce tutti i miei movimenti, i miei passi, perché è una persona che mi fido tantissimo, lo so. Quindi preferisco più fare dei cambi, delle cose, più che vendere, perché giustamente poi, come ti chiedo, domani e direi, non è né uno né l'altro. Quindi conviene sempre contare fino a 10 prima di fare le cose, a meno che proprio uno se ne voglia disfare perché non la usa, se no è meglio così. Vabbè, ho visto quello là, ma si vedeva l'altro giorno da Eurospin. Praticamente non mi ha detto nulla. Ha chiesto l'amicizia a Facebook, non glielo neanche accettato, non me l'ha fatto nulla. Mica una bestia nulla, una bestia nulla. È stato tagato buonissimo, come per tutti i lasci, lascia aperto, già te lo spiego in verticale. Vai Marco, riprendi che io mi metto il pantalone che sono in tutta, che così mi organizzo per portarmi in piano, anche se è addormentato lo vedo da qua, poverino, che è tutto coperto col plaid. Devo avere un caso allucinante, uscire a quest'ora per lui è come se buttargli un fucile in bocca, cazzo. Cappa, dai, io vi devo lasciare un attimino che è quasi pronta la minestra ai nonchi. Dai, l'hai buttata da poco? Va bene, là, allora ci un pochettino. Ehi, allora vai Marco lì che mi vesto intanto, là, già vi ascolto, poi quando sto andando via già ve lo dico. Riprendi Marco. Ok, ehi Anto, ricordati, poi mi dirai quando ci sentiamo che alimentatore hai, perché il 747 di suo ciuccia almeno 10 ampere, come l'RM Italy, quello che ho io, il 203, cappello 203, quindi fai 10 ampere quello minimo, più 2 ampere dell'apparato, 2 se gli dai 4 watt, magari 2 ampere, 3, dipende dall'apparato che usi. Quindi l'alimentatore da 15, non penso che sia da 20, non lo so, per avere un margine buono, ti conviene pigliare a 30 direttamente, tipo quelli switching della Proxel, 30 ampere teorici, regolabili volt, boh, se no non ce la fa, deve aumentare di 2 Santiaghi. Capito, tipo da 8 a 9, 5 dovresti passare da, siamo capiti. Ciao, dai, buona serata, ciao. Capa, già la vi, già vi dà il magazzino, solo che non vuoi toccarne, lasciamo perdere, va. tanto ma vai dal cinese, 20 euro, te lo compri nuovo e ti prendi quelli switching che stavo dicendo Marco, 30 ampere e attacchi le due radio e linea retto, boh, non togli quello lì, perché sei sottoalimentato, per quello che non ce la fa quel... Lo so. E adesso faccio la penta, amico Massimilia. Adesso ho messo, ho fatto questo, adesso poi faccio un'altra cosa. E un pezzo alla bocca e me lo porto, capito? Cava cava, avanti Luca. Sì, allora sono rientrato. Non è stato il vostro capo di configurazione dello smart. Niente, invece è possibile connettersi al server e contattare il centro servizi Samsung. Luci di capo, così è. Sì, ma infatti la mia, vai, esatto. Guarda la vostra, riuscivo a tornare in tu. Mi sa la televisione che non funziona, solo che non va su internet. Vabbè, ora di la futti. Bastano farla andare su internet, molto ci vuole. Sì Marco, una buona modulazione quella con il più 5, però sono sicuro che non ti piace a te. Ma oddio, una volta mi pare che mi ero registrato, però diciamo non mi trovo con questi da tavolo me, perché qua rischia col gomito di cadere, non, cioè lo devo appoggiare sul bracciolo del divano, capito Massimiliano? Qua rischio caduta se non sto attento. E poi ho preso il vizio di usare sempre mic originali, sempre, tutti gli apparecchi li sto usando col mic di serie, che sia il 3009, che sia il 5005, i CRT vari, anche il President, il mic originale. Ma sai perché Massimiliano? Perché se tu conti che uno c'ha la presa a 4 poli, vabbè, però l'altro c'ha la 6 poli, l'altro c'ha la 7 poli, l'altro c'ha la RG45, cioè o mi faccio 10.000 adattatori, oppure me ne rimango col microfono di serie di ogni radio, forse prima. No, però ti puoi fare l'adattatore a tipo scatola, mi capito? Con tutti gli adattatori e poi esci con uno solo. Signora, tu cosa stai usando? Il magno? Ehi, il magno. Fortissimo. Me ne sono accorto perché è un bel forte come radio, come timbrica. KK, questa me la lascio, cazzo, e poi questo è un ricordo di Giampaolo Silvestro, capito? Prescindere, c'ho anch'io qualche ricordo suo, ma prescindere da una bellissima radio. E sembra bene, fortissima, e tu la stai usando col microfono normale, però quella è una radio. Una radio che va bene, e poi in alternativa vai a usare Pente, quindi. A proposito, quando ci vediamo, poi te lo do il partner, intanto mi ha fatto la connessione al MB più 5, sto usando quello. Così ti ho anche con l'antenina, Massimiliano, cazzo, organizzati dall'altra parte, minchia, cazzo, almeno sei così a fare due chiacchiere anche lì, quando ne hai voglia, quando ti fa piacere. Cavolo, ma perché non c'è più? E chi? La persona che stava nominando. Giampaolo Silvestro, poverino, è morto già qualche anno fa, io ho un portatile suo, Massimiliano c'ha l'S9 che aveva preso da lui, è morto Giampaolo. Un grande, noi siamo nati assieme nella stessa via, abbiamo condiviso l'elementare, abbiamo condiviso le medie, già da quando lui abitava in Viale delle Vigne. Purtroppo è andata così, una malattia se l'ha portato via. Beh, ragazzi, se ci siete a dopo, mi fa piacere. Altrimenti a casa, cosa volete vi dica? Massimiliano, lascio tutto così, non tocco più niente. Questa è la regolazione ufficiale del 14. E io lascio tutto così. No, comunque, tornando al discorso, mi sono organizzato io, l'ho sollevata. Infatti poi volevo un controllino a vedere com'era, perché prima era il 5 tu mi hai detto, adesso l'ho sollevato a metà tavola. Dai, io vi saluto che è pronto a mangiare, ci risentiamo. Ciao Antonio, buona cena e buon tutto, là, ciao. Ciao. Ciao Antonio, ciao. Ciao Antonio, alle prossime, dai, saluti a casa. Ma sì, io ce l'ho accesa, se vuoi fare una prova e poi vado a portare il cane. Buonasera. Ciao Bambolino! Ciao Gianni, stavo provando questa radio, l'ho finita. Aspetta. Sì, va bene, calcolata stasera che va bene. A avanti Marco, buonasera. Aspetta, scusa che abbasso, dice Vittorio. Ciao Marco, ciao Luca. Oh Lu, ma cosa non riesci a fare? Non riesci a connettere il televisore a internet, al wifi per caso? No, allora, no, io non riesco. Praticamente mi dice aggiornare questo smart home. Sì, non c'è problema. Ma prima di tutto, tu come lo colleghi su internet il televisore? Tramite cavo, il cavo o tramite wifi, oh Lu? Entrambi, connesso entrambi, cioè con il cavo che... aspetta un attimino che abbasso qua, con il cavo e con il wifi, e anche col telefonino l'ho connesso, è connesso la TV, ma mi dice di aggiornare questo hub, e non te lo fa aggiornare, boh. Stavo sentendo qualcosa prima che ti dice di rivolgerti all'assistenza clienti. Una domanda, ma questo televisore che sia un operativo ha per le applicazioni, Android oppure è proprietario? Aspetta, facciamo la prova, adesso azzerato tutto, vediamo. Adesso facciamo la prova, aspetta. Ehi, Gianni, riprendi? E poi si pronuncia hub, così, pensate a questo hub. Oh, hub vuol dire, cosa vuol dire? Oddio, aspetta che mi cogli impreparato. Nel frattempo che prendo lo smartphone, rilancio Gianni. Hub, cos'era? Hub, tipo l'hub USB. Quello per, da una ne fai tante, no? Di prese USB. Come dire, aspetta che ti cerco il termine, Gianni. Una multipresa. Ascolta Marco, ma non è che ci vorrebbe il telecomando adatto? Io sto già un telecomando Samsung, però non c'ha il tasto quello... cioè quello per lo smart, capito? Lu, io di queste cose ben poco ne so. Io per il mio televisore sto usando una TV box Android esterna, collegata tramite HDMI. Ed è però il sistema operativo è Android, è identico al cellulare. E il telecomando suo di questa TV box c'ha tutto, no? E la simulazione mouse, e lì non ho idea di come possa essere lui. Però se il telecomando è il suo, del televisore, dovrebbe avere anche tutte le funzioni delle applicazioni, no? Per navigare. Sì, ho capito, però il discorso è che ci vorrebbe telecomando, facciamo questo qua, vediamo un po', aspetta, dai, ci provo con questo, vediamo se me lo fa fare. Posso scaricarlo dal telefono? Ehi, Gianni, mi hai trovato il termine, poi te lo dico lui. Ehi, allora dimmi. Gianni, non lo facciamo riprendere già Gianni. No, vabbè, dice, in una rete informatica è un dispositivo che collega i vari client al server, raccogliendo i cavi provenienti da questi computer. Vabbè, ma qua parla di sempre di cavetteria, è come la storia dell'hub USB. Io ti ho detto, non so, sicuramente Samsung si avrà un sistema operativo proprietario, quindi io lì non saprei come procedere, non ne ho mai avuto di quelli, cioè televisori col coso incorporato, capito, col sistema operativo, dai, per andare su internet. Oh, dai, perdonate che io devo uscire col cane, sono già le 8, ok, sono tutta la sera qua dentro, stavo facendo questa radio, i risultati sono arrivati e sono contento, vai. Ci sentiamo, ciao Gianni, Bombolo, Massimiliano, dopo ti chiamo Massimiliano, ti devo chiedere una cosa su quella roba là. Ciao Marco, ciao a tutti, ci sentiamo dopo, se coincide sono le tue. Riprendi Massimiliano, riprendi già. E allora buona passeggiata Claudio, ci sentiamo, dai, fra poco scarichio. Vabbè, avanti Marco. Ciao Claudio, ciao Massimiliano. Poco fa ho abbassato il ricevitore, appunto, che mia query a fondo scala. Massimiliano non arrivava qua però, con il ricevitore, sono troppo in basso io. Che altro dire? No, stavo cercando termini simili, per esempio TV Samsung Smart Hub non funziona, se qualcuno ha fatto una ricerca a quel proposito. Risolto, mi dice risolto, vediamo. Se vuoi ti mando il link, te lo leggi tu, Luca. Poi manda, ciò fai, ma monopolizziamo qua, manda. Ehi, ho già. prova a cliccare sul link, la pagina non funziona. Vai, non ammala, c'è la risposta, c'è. Che sono, Maria Gà? Cioè, non me la apre. Non me la apre, dice, la pagina non funziona. Ricarica. Boh. No, è questione del sito. No. EU Community, guarda, il proprio sito è eucommunitysamsung.com, non me lo fa aprire. Che schifo, cazzo. Funziona tutto, non funziona niente con questa roba elettronica. Gianni, riprendi. Ehi, vabbè. Sì, tutta la sera che sta tentando Luca, per trovare la risposta, bene o male la troverà prima o poi. Magari proprio per telecomando che non riesce a dare quello che deve dare. Magari di un altro televisore, non essendo di quel televisore lì, non c'è tutte le funzioni, capito? No, io c'ho l'HP. C'ho tutti e due televisori che sono HP. Ah, la marca di computer, Hewlett Packard, o Hewlett Packard, non so come si pronunci. Sì, allora Luca, tutte le pagine di questa community, no, a meno che non ti debba registrare, no, ma proprio non apre la pagina, se hanno le risposte a questi problemi hub dei televisori Samsung, no, Smart Hub non funziona, non me lo apre, non so perché. Cosa posso fare? Usare una VPN? Non lo so. Aspetta. No, non me l'ha aperto comunque, quello che mi hai detto tu me l'ha aperto. O ci vuole il telecomando suo, boh? Allora ragazzi, io rientro, scusate, a gamba tesa, così vi saluto là. Mi sono un attimino allontanato dalla radio e non ho capito chi è entrato, chi è uscito e niente. Devo scendere nel piano di giù, è pronto quasi a cena. Ok? Vi saluto con la buona serata. Ciao Massimiliano, ciao, buona serata e buona cena, dai. Avanti Marco, di nuovo. Ehi, ciao Massimiliano, dai, buona serata, buon tutto e ci sentiamo le prossime. Vai Luca. Ehi, ciao Massimiliano, buona carica, buon tutto. Adesso siamo qua, noi, se ne hai voglia, se no alla prossima, avanti già. Ehi, cosa fa adesso? Fra un po' mi investo e vado a portare il cane, anche se non l'ha giù Gana oggi. Sono un po' abbioccato. Forse il freddo, non lo so. Sono goduto rannicchiato. Ehi, già, non sei solo me. Io quando era 2 giorni fa non mi sentivo niente bene, no? Non acceso, ci ho acceso 5 minuti presto, poi ho spento tutto e me ne sono andato in camera. E la giornata, capita. Freddo i piedi, infatti mi sono messo una coperta sopra. Freddo i piedi, ci avevo, è contento che ho le calze, non è che sono a piedi nudi. Oh, freddo i piedi. Vabbè. Purtroppo devo uscire lo stesso, perché tesorino qui deve fare bisogno. Eia, che ha brutto lo smitter spento, porca miseria. Tanto è feo, non vedi nulla. Vabbè, se ne parlerà in seguito. Allora, lui, ho provato con la VPN a accedere ad altri paesi, non me lo apre questo sito. Prova tu. Guarda, tu vai con lo smartphone, scrivi Samsung Smart Hub non funziona. E ti dovrebbero comparire tutte le risposte di questo eucommunitysamsung.com, cioè eu.community.samsung.com, eccetera. Sono sotto le balle già, basta. Qua si vediamo un po'. Se riesco a fare... Apri Hub, Smart Hub. Il piccolo Smart Hub l'ho già fatto. Niente. Porca miseria, ma certe volte sono migliori queste TV box davvero, se statolette che attacchi, c'è Android, hai più familiarità, cioè colleghi al wifi, tutto fatto, è una cosa incredibile, guarda, in 5 minuti lo installi e lo stai già usando. E poi vendono anche le tastierine col touchpad piccoline, con tutte le funzioni, beh quella non l'ho comprata. Già, se devi portare il cane io tanto non tarderò a chiudere, è lo stesso, sono le 8 meno qualcosa, anch'io sono un po', boh, non lo so, un po' sventiato sono, no. non riesco a concentrarmi sulle cose, mi già, ad essere seriamente nervoso questo. L'Alzheimer. Ehi, è come un deficit dell'attenzione, mi. Ieri stavo guardando puntate del dottor House di notte e non riuscivo a concentrarmi sul linguaggio, sulle battute, mi. Sul dialogo. Mi distraevo, la mente era altrove, boh. Cosa ti dica? Prima o poi mi. Luca riprendi. Adesso mi accorgi. Frate, guarda, sono qui a posto. Adesso mi accorgi, attiga, per carità. Allora, prima è stato un PBC sul router. Guarda, sono 2 minuti PBC. Sì, continua a non aprirmelo, dice. Ti ha reindirizzato troppe volte. Prova a cancellare i cookie. Cancelliamo i cookie e ci avvedi. C'è la di cookie. Sì, cookie dentro. Ma non è che è bevuto lo ieri? No, non bevo mai. No, perché a me me lo fa quando sono un po' sbroso, che mi parlano e mi va tutto in fumo, non riesco a capire che cosa dicono, non riesco a concentrarmi su quello che dicono, capito? Li ascolto, ma è come se non mi stessero parlando. Invece alzo la voce. Tu muddu, che fai danno quando sei guta? Ah, l'ha fatto, no. E buon cazzo la voce, buco. Antonio Vermentino ti chiamiamo. Vabbè, Vermentino sei tu. Vabbè, mi piace il Vermentino di Monti, va. Anche a me piace, caspita se mi piace. Però io non ne devo toccare perché lo leggo poco. Magari se l'avessi letto di più, se fossi più abituato già. Io guardo al massimo dopo pranzo, dopo cena, al massimo un micro bicchierino di amaro o limoncino. Quello che c'è, però non. Io al bar consumo sempre solo caffetteria, caffè, cappuccino, cosa ne so, roba analcolica, non ne devo toccare alcol, è come quasi che fossi allergico. Me. No, io al bar prendo crema caffè, caffè normale, caffè macchiato, atto e poi la cioccolata che mi piace molto. Vizioso, anche a me piace, anche e soprattutto la cioccolata che la fanno pagare troppo al bar. Preferisco comprarmi ciò bar e me la boccio a casa. Vabbè, il bar giustamente deve guadagnarci, no? Sennò che ci sa fare? Da voi sempre la matessi goza a me. Gli dico me la ritira sempre la matessi goza. Cosa? Non facevo ciò bar pure a rubare. Le ho viste le bustine. Io non l'ho mai fatta, non lo so nemmeno come si fa, non l'ho mai fatta, ma ci sono le spiegazioni. Sei sicuro? Sì, confermo. C'è scritto come farla, è una cosa quasi istantanea. O se no, Gianni, la cioccolata con panna al bar. Uia! E così io me la faccio, me l'ho fatta anche da poco, anche da poco. Il giorno che c'era freddo, poi una domenica c'era freddo, sono andato e me lo sono fatta fare. Me l'ha fatta buona, come dici. Ma giù fatto un auto di chi ci giocava. Ma lo sai che c'è anche quello di Eurospin, che si assomiglia completamente. A me mi va la stessa cosa. L'ho comprato tante volte, l'ho fatto, è buonissimo. Io ho comprato la Nutella. Cosa al Ditali, dove vicino a casa mia. La Nutella che non è di marca, ma è uguale identica alla Nutella, lo stesso sapore e la stessa cosa. È vero, lo sai che molti prodotti con gli anni hanno migliorato. Per esempio, tu, tanti anni fa, ma ti parlo di 30 anni fa, andavi a comprare la finta Coca-Cola, tipo Kinder Cola, era una cosa abominevole, cattive, certe sapevano tipo di fenolo, una cosa proprio schifosa. E invece col tempo ci sono praticamente tipo la Freeway in lattina che prendi da Lidl, sembra identica alla Coca-Cola. E così per le creme alla nocciola, hanno tipo Nutella. Una volta erano meno buone, tipo troppo dure o con sapori strani, adesso le fanno quasi perfette, come se avessero clonato la ricetta originale. Luca, riprendi. Aspetta un attimo, sto provando a collegarmi questo screen, mirroring, aspetta. Allora, praticamente da adesso un pochettino di tempo da questa parte, le stesse aziende lo producono per un'altra sottomarca e poi la Matessi hanno adottato tutti questi sistemi qua adesso. Non so, specie d'Aureus Pigi, sono Colussi che fa i biscotti, cosa ti posso dire, Granilli, quelli che sono ben buoni, io metto nel latte. Ma anche